America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. With inflation anticipated to run at or below our 2% objective, the committee has become convinced. Ben Bernanke, finalmente l'annuncio di un intervento quantitativo da parte della Fed, notizia accolta molto bene dai mercati, un aumento dell'1,55% del Dow Jones, siamo a quota 13.539, livelli ormai vicini ai record del pre-crisi. You know, Governor Romney seems to have a tendency to shoot first, name later. Ma voglio parlare anche della crisi medio orientale, poi più in là in trasmissione torneremo a parlare in modo più approfondito della parte economico e finanziaria. Bene, avete sentito il presidente Barack Obama in un'intervista alla CBS, il presidente ha detto che forse Mitt Romney, diciamo, parla un po' troppo in fretta. E racconta che da presidente ha imparato una lezione, che è meglio ascoltare, è meglio aspettare, è meglio verificare i fatti e poi intervenire. Forse Mitt Romney non è pronto per fare il presidente. L'aspetto interno della vicenda libico-egiziana naturalmente continua, si sviluppa, ma ci sono anche dei contorni piuttosto preoccupanti per ciò che riguarda la stessa crisi. Some have sought to justify this vicious behavior along with the protest. Ecco, Hillary Clinton ha dato una descrizione di quello che è successo in Egitto. Il problema vero che sta emergendo a questo punto, paradossalmente, perché i morti, l'ambasciatore ucciso, li abbiamo visti in Libia. Ma in Libia si è trattato di un attacco che ha sempre più la fisionomia, il contorno dell'attacco terroristico di una squadra di Al-Qaeda organizzata, strutturata, che si è mischiata con la folla e che in qualche modo può aver anche sobillato la folla per questa dimostrazione, per poi portare questo attacco letale. E dunque il governo libico sta collaborando con le autorità americane per cercare di identificare i colpevoli, gli Stati Uniti stanno inviando dei marini, insomma c'è un movimento piuttosto serrato per cercare di lavorare in cooperazione col governo libico e quindi arrestare i colpevoli. Con l'Egitto no, l'Egitto ha mantenuto una linea dura, l'Egitto ha attaccato gli Stati Uniti, l'Egitto sembra dimostrare di non capire come funziona l'America, come funziona il mondo occidentale, questo filmato, ma ridiciamolo, questo filmato è un filmato stupido, orrendo, un filmato che se qualcuno lo guarda gli viene da ridere, eppure il mondo islamico lo strumentalizza, perché non ride di una cosa malfatta da qualcuno che approfittando del primo emendamento che garantisce la libertà di espressione produce qualche cosa di ridicolo, no, lo usa e lo strumentalizza. Mentalizza per dire voi America avete prodotto qualche cosa che non avrebbe dovuto essere prodotto, c'è il concetto di centralizzazione che in questo paese ovviamente non esiste. Ecco, questo è un fatto grave, perché se sarà confermato significa che l'Egitto sta facendo dei passi indietro invece di fare dei passi in avanti, significa che la Muslim Brotherhood e il suo leader non riflettono quelle che erano le speranze generate dalla primavera araba e da un avvicendamento ai vertici del potere in Egitto. Ecco, per questo l'America è preoccupatissima, per questo ci si sta occupando di Egitto, per questo si cerca di capire dov'è il vero problema per la sicurezza americana nazionale guardando al futuro. The committee will closely monitor incoming information on economic and financial developments in coming months. Ecco, avete sentito Ben Bernanke che annuncia interventi illimitati nel tempo, attenzione, non dal punto di vista della quantità, perché per ora si partirà con circa 40 miliardi di dollari al mese di interventi. Alcuni di questi interventi saranno coordinati con la cosiddetta operazione SWIFT, quindi si potrebbe arrivare in certi momenti fino a 80 miliardi di dollari al mese di intervento. Ma l'elemento nuovo, la novità, è l'aspetto illimitato. Cioè Bernanke continuerà ad oltranza fino a quando il tasso di disoccupazione non sarà tornato su livelli soddisfacenti. Il problema resta quello della crescita, soprattutto della crescita dell'occupazione. Mi ha colpito questo aspetto, tra virgolette, illimitato della Federal Reserve, perché ha un suo parallelo con quello che ha annunciato Mario Draghi della BCE e non più tardi di qualche giorno fa, quando ha detto che la BCE avrebbe fatto interventi illimitati fino a quando gli spread differenziali sui tassi non fossero diminuiti su livelli coerenti con le fondamenta macroeconomiche. Ecco, vediamo dunque un attivismo forte da parte delle banche centrali e vediamo però una relativa assenza da parte degli stati. Ci sono delle scadenze, certo in Europa si sono fatti dei passi in avanti, si sono fatte delle riforme, si è messo finalmente in piedi un impianto di fondo salva stati, però restano polemiche. In America c'è la rupe fiscale e dunque la Casa Bianca e il Congresso dovranno a un certo punto trovarsi insieme. L'idea è che partiranno dopo il 7 novembre, dopo le elezioni americane, hanno tempo fino a gennaio. Dunque in qualche modo le banche centrali hanno fatto quello che dovevano fare, la palla adesso passa nel campo degli stati. Ho con me ai microfoni di America 24 Isabella Buffacchi, nostra inviata al Sole 24 Ore, che segue le questioni monetarie europee. E dunque giro a lei questa domanda. Isabella, buongiorno. Buongiorno a tutti. T'ha colpito intanto questo fatto di comunanza di linguaggio tra Federal Reserve e BCE? Tutti e due hanno improvvisamente introdotto questo elemento illimitato. Cosa ti dice? Sì, devo dire che avevo colto anch'io questo stesso concetto, che secondo me è direttamente collegato al tipo di crisi e di complessità delle crisi che le banche centrali devono affrontare. La parola illimitato è, visto che i problemi che abbiamo di fronte, strutturali, di crescita, politici, fiscali, sono veramente complessi e richiederanno molto tempo, io do tutto il tempo che serve con strumenti potenzialmente illimitati. Ecco, quindi c'è un atteggiamento che, come nel caso della Fed, così in quello della BCE, vuole rassicurare i mercati. Ma torno alla questione centrale. Ormai le banche centrali hanno fatto tutto quel che potevano fare, non credo che ci siano altri strumenti di intervento, a meno che non si cominci a stampare moneta in modo altrettanto illimitato, cosa che per ora non dovrebbe succedere. Cosa possono fare gli stati? E io ho dato un po' un'idea di quello che può fare l'America, però ci sono degli elementi di responsabilità a questo punto che i singoli governi, lo stesso governo italiano, dovrebbero assumere. E abbiamo parlato a lungo delle richieste della BCE. La BCE ha chiesto sia all'Italia che alla Spagna di partecipare al programma del Fondo Salva Stati. Ecco, uno, secondo te succederà? E aggiungo, dovrebbe succedere? Le banche centrali ci tengono a ricordare sempre che i loro interventi sono mirati. Quello che le banche centrali non possono fare è ridare la competitività a uno Stato, ridare la crescita, fare in modo che i conti pubblici siano sostenibili. Ecco, loro dicono, noi abbiamo degli strumenti magari molto efficaci, anche illimitati, però noi agiamo nel nostro campo. Quindi la Banca Centrale Europea, nel rafforzare il concetto di condizionalità, ha voluto dire: noi possiamo fare una delle due gambe, ma l'altra la devono fare gli stati. Ecco, Isabella, tu hai fatto un esempio chiarissimo: due gambe, la gamba della banca centrale, e lì ci vuole l'altra gamba, la gamba dei governi, perché questa gamba si metta in moto, dice la banca centrale, bisogna che ci siano garanzie, bisogna che i governi aderiscano a un fondo salva stati e in qualche modo si sottopongano a condizionalità. Ecco, secondo te questa gamba, diciamo, degli stati, del governo italiano, può mettersi in moto seguendo quella direttiva o no? Se mi chiedi un pronostico, direi che lo scenario migliore è quello di rimettere in moto la nostra gamba, e cioè recuperare competitività, creare posti di lavoro, crescere, abbassare il debito, ridurre gli interessi sul debito e lo spread, arrivare a tutto questo senza chiedere l'aiuto formalmente ai fondi salvastati. Perché? Perché quello è uno strumento nuovo, diciamo, non è un salvataggio ma è un sostegno, però è imprevedibile l'impatto che potrebbe avere sul nostro mercato dei titoli di Stato, che ricordo ce ne sono 1.600 miliardi in circolazione un po' in tutto il mondo. Io penso che la nostra gamba si può mettere in moto utilizzando solo i deterrenti, che secondo me sono due. Da una parte il deterrente del bazooka, chiamiamolo così, della Banca Centrale Europea, che può acquistare titoli di Stato per importi illimitati, e dall'altro, secondo me, il deterrente più per l'Italia è lo spauracchio del Fondo Monetario, che può entrare con la troica in casa e decidere la tua politica fiscale e politica economica. Quindi questi due deterrenti potrebbero portarci a muovere la gamba senza chiedere ufficialmente aiuto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, anzi inviateci dei tweet per cortesia, soprattutto sulla crisi libica, sulla crisi egiziana. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Voglio dedicarla a Amy Winehouse, che oggi avrebbe compiuto 29 anni. Voglio farvi ascoltare uno degli artisti a cui si è ispirata sia musicalmente che nel make-up, Ronnie Spector delle Ronettes, Be My Baby.